Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 1 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. Avanti con la ricetta di oggi: spaghetti al pomodoro fresco. Ingredienti per 4 persone: 400 g di spaghetti, 800 g di pomodori perini, qualche foglia di basilico, olio extravergine di oliva. Lavate i pomodori perini, sbollentateli in acqua per 30 secondi, scolateli, lasciateli intiepidire, eliminate la pelle, i semi e tagliate la polpa a pezzetti. In un tegame con l'olio, scottate i pomodori per qualche minuto con il basilico tagliato e salate. In una pentola, cuocete gli spaghetti in acqua salata, scolateli, amalgamateli al condimento e serviteli con qualche foglia di basilico. Per oggi è tutto. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Questa era la puntata numero 1 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e vi do appuntamento alla prossima ricetta.